GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Come avete appena sentito, oggi gli sguardi sono puntati su Bruxelles. Oggi e domani, dunque, vertice dei capi di Stato e di Governo che sono chiamati a negoziare il quadro complessivo dell'Unione Europea 2014-2020 con tutte le implicazioni su ciascuno dei 27 Stati. Un negoziato estremamente complesso, ci sono molte preoccupazioni, altissime quelle del mondo dell'agricoltura. La politica agricola comune, dunque, all'interno del quadro generale dei costi e delle disponibilità. Dice no ai tagli che si annunciano Herbert Dorfmann, parlamentare europeo, referente per il gruppo Italia-Germania-Austria, ha lavorato a lungo alla modifica della riforma della PAC che come da istituzione viene presentata dalla Commissione e poi discussa all'interno del Parlamento europeo. Allora Anna Marino gli ha chiesto per noi perché il risparmio più consistente si vuol fare sul mondo agricolo. Io penso, e su questo sono molto pragmatico, penso che la cosa sia molto semplice. Se si vuole risparmiare si deve cominciare dai pezzi grossi, e il pezzo grosso della spesa complessiva dell'Unione Europea è il bilancio agricolo, quindi non penso che sia proprio un tentativo per danneggiare l'agricoltura, è proprio un fatto pragmatico che si vuole cominciare dalla spesa più importante per avere lì un risparmio che in termini poi assoluti sia un risparmio importante. Un approccio pragmatico però tocca, diciamo, un nervo scoperto. Quali numeri si fanno per questo risparmio? Siamo intorno a un risparmio del 15% sulla spesa totale, abbiamo un bilancio annuale che è intorno ai 55 miliardi per la spesa agricola all'anno, quindi un 15% sono 7-8 miliardi all'anno. Quello che però a me, diciamo, preoccupa di più è che questo risparmio deve colpire tutte le spese in maniera quasi indifferenziata. Io penso che nella situazione agricola nella quale ci troviamo sarebbe molto utile riflettere dove si può veramente risparmiare. Secondo me ci sono delle voci dove si può risparmiare e su altre invece bisogna investire se vogliamo rimanere importanti sul mercato internazionale anche in futuro. Agricoltura dunque, e restiamo su questo tema. Paolo De Castro, che è il presidente della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento, mette in guardia contro la proposta di regolarizzare l'autorizzazione nel settore dei vini di espressioni tradizionali come Chateau e Clos, questo per i vini prodotti negli Stati Uniti e commercializzati sul mercato comunitario. Una notizia, dice De Castro, che destra particolare preoccupazione e stupore in un periodo in cui si registrano sempre più diffusamente fenomeni di imitazioni dei prodotti di qualità certificata. Come abbiamo detto, gli occhi su Bruxelles, dove i capi di Stato e di Governo decidono dunque il budget. Però l'istituzione prevede che la decisione finale spetti al Parlamento, storicamente poco esercitata. Bene, qualcosa sembra muoversi. Ieri il presidente Martin Schulz ha raccolto questo clima molto polemico all'interno della plenaria. Più alti i tagli saranno, più alta la possibilità di una bocciatura da parte dell'Europarlamento. Non dovremo mai accettare un bilancio di austerità per 7 anni, ha detto il capogruppo Josef Daul, perché se lo facciamo accettiamo che la crisi prosegua all'infinito e noi non siamo così pessimisti. Bene, con questo concludiamo questo appuntamento con GR Europa che come sempre torna domani. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.